Oh mio Dio, non c'è 2 senza 3. E non c'è 59 senza 60. 001. 60, ragazzi, 60. E non sentirli. Vai! Che non merita, che non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Senza terra verde, la musica si riprende. Radio Forte 100 Celle Avengers, la musica si difende anche oggi per la terza volta di seguito. Non so per quanto tempo continueremo a sottolineare il fatto che siamo in onda come se fosse un miracolo. Beh, ma è. In realtà è il nostro dovere, come dice il genitore Severo. Però siamo alla 60esima puntata, quindi così comincio subito a farmi le lodi, così tanto per festeggiamo 60 anni di attività, non è vero? bello. Quindi comincio subito con le presentazioni. Alla mia destra in console, ho indovinato destra, sì, ho indovinato destra. Che bravo. Betta! Buonasera, piccoli nerd. E alla mia sinistra, di conseguenza, sempre a una semi console, ma soprattutto master of scaletta of Little Star, Virgi. Alla scaletta cartacea con alla console cartacea con carta e penna. Buonasera. E a seguire, sempre più frequente la sua presenza, anche se un po' preziosa, scusate, la giornalista faziosa Gabri Grubri Emilia Gadda. Colpo basso, ciao, buonasera a tutte e a tutti. Spumeggiante! Spumeggiante come il nostro ultimo ospite, il nostro ultimo pezzo del Voltron. Pilastro. Che compone il robottone che siamo noi, e cioè The Beautiful Mind, Franci. Ciao, ciao a tutti, amanti della matematica e non. Allora, anzitutto, ho detto giusto, era Voltron quello che si componeva dei 4-5 robotti. Vabbè, siamo 5 oggi, quindi a posto. Siamo 5, ma salutiamo la siamo maestra. Siamo 6. Viola. Nelle retrovie. E siamo anche 6. Dobbiamo anche salutare nelle retrovie, esatto. Non microfonate. Sei qui. Ma all'occasione anche pronte a essere microfonate. Giorginio, grande. Jorge il mentirotto. Dietro le quinte, non microfonato, l'Andrea Salerno di 100 Celle Avengers. Lui era il quinto Beatles, Giorgio, è come il quinto Beatles. Certo, Giorgio comunque c'era. Sì. E ovviamente solo anche Iron Man e Alexa. No, ah, beh, no, detto no, giusto, qua, giusto. Qua. Abbiamo sempre paura di scordarcelo e quindi la fretta di salutarli. Ciao Iron Man, ciao Alexa. Io volevo fare un'introduzione. Un'introduzione che ci sta già bene, perché ho sentito troppi spumeggianti in questo momento. E la puntata di oggi sarà sugli errori. E quale migliore intro se non questa? In The Mask non era spumeggiante, ma era sfumeggiante. Ed dai, è una cosa sì che viene che è stata molto, molto dibattuta. E alla fine è stato scoperto che il vero testo era sfumeggiante. Fantastico. Quindi abbiamo già iniziato bene questa puntata dicendo. Ottimo! Ma questo è tra l'altro è materiale fresco, ottimo per la nostra cara dotta Betta, giusto? Che è vero che si parla di testi di canzoni, però se vogliamo mettere anche testi di film. Testi di film doppiati. Quando vogliamo. Io volevo capire questo. Però volevo essere troppo pedante. Sì. Interessante. Sulla spuma spumeggiante in inglese. Sì. Cioè, l'equivoco c'è stato nel doppiaggio o credo forse nell'ascolto del doppiaggio. Perché lui nella realtà dice sfumeggiante. Allora siamo noi che facciamo l'errore. Cioè, quindi siamo noi italiani con quel doppiatore lì. Troppo italiani, troppo. Ignoranti. Quindi non cadranno teste per questo. Beh, no, non credo. Non fuori di qui almeno. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo del tema che abbiamo scelto, molto natalizio devo dire, no? Sì. L'errore. Ma che senso? Primo errore è lasciarvi scegliere il tema comunque, però esatto. Me lo rivendico e quindi è andata così, proprio così, anche se oggi è un'importante vigilia anche, cioè, vorrei vero dire, insomma, natalizia, sempre una vigilia natalizia, anche se è così, l'abbiamo buttata sull'errore, quindi abbiamo inseguito o non abbiamo inseguito questo tema con le nostre molteplici rubriche, non lo so, ma soprattutto non so, ma mo noi, no? Non che metteranno una musica sbarazzina perché ho voglia di niente. Niente. Cioè, che ci sentiamo? Qual è la sua perplessità, maestro? Mi dica. Non ce l'abbiamo. Allora, no, adesso mi metto uno stacchetto di quelli tipo le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile e tu mi fai capire una cosa. E sempre più confusi, perché no, voglio dire, questo stacchetto ha aiutato tanto a capire che abbiamo detto che la vigilia, la vigilia di cui parlavo non era nota, o comunque non faceva vigilia per molti, quindi cioè, nessuno ha capito a cosa alludessi. No, infatti. Poc'anzi. Magari mi sono sbagliato di data io, quindi domani mi presento da solo. Da domani c'è il Secret Santa. Cioè ormai la cosa importante non è la cena di MD di Natale, no, è il Secret Santa. Ma non è la vigilia di Natale oramai la cosa importante, la nascita di nostro Santa. Gesù bambino. Gesù. Avete fatto i vostri regali? Sì, assolutamente sì. Io sono un po' anche, va bene, sì. Diciamo che il mio regalo è stato fatto 10 minuti dopo aver scoperto il mio Secret Santa, ma non posso esserne orgogliosa perché non è arrivato. Male. Meno male che hai ricordato di mettere il destinatario dei regali, perché io me lo stavo scordando, quindi. Ah, stavi mettendo a letti di regalo a Melide Ignoto. Esatto. Ma comunque, cioè, già vorrei far notare che bisogna anche essere un po' scaltri nell'arrivo al ristorante, cioè dove sarà, insomma, cioè non è che poi arrivi, cioè se te arrivi con una scatola riconoscibile si vede appoggiare, cioè già sei sgamato. Io l'anno scorso ho fatto questa, c'è un partecipante che ha sollevato questo dubbio, quindi bisognerebbe fare una cosa neutra, un grande, non lo so, un cestone, non lo so, è impossibile. No, vabbè, bisogna metterò il classico sacco come tutte le volte, la bustona, e poi vi lascerò inseppare i regali. Vabbè, domani quindi ci sarà questo scarta generale che interessa a tutti i nostri radioascoltatori. Vabbè, è servito per trovare un pezzo da mettere, Gabby. Forse non avevi capito, eravamo in crisi, e quindi grazie a Babbo Natale abbiamo scongiurato la crisi. Adesso ascoltiamo un attimino i Cure e poi ne riparliamo. Va bene, io ho portato su i mandarini. Forte, chi vuole un mandarino? Celle Avengers, A Forest. E su 100 Celle Avengers alle 17.13. Che emozione, ragazzi! Non mi è mai capitato di fare una rubrica così presto all'inizio del programma. Ecco per voi la rubrica in prima serata. Così a stocco. Meglio De Floris. Eccoci qui con la nuova rubrica Canta responsabilmente. E maestro, mi lanci la sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il lato. Porta 100 Celle Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Northern. Come l'ha chiamato? Northern. Northern. 600 Celle Avengers. Ora che cammini. Bellissima nuova sigla. È bellissima nuova sigla, ma oh, c'è stato un errore. Non è. Hai visto che gancio? Mamma mia. Così sembra che l'abbiamo fatta apposta a mandare. Veramente professionista. Io rispetto il tema, ragazzi. Comunque, benvenuti piccoli musici e non piccoli nerd. Oggi parliamo di un brano che ho sempre amato moltissimo. Crazy è un brano del 2005 del duo Gnars Barkley. No, raga, non lo so di Gnax, bellissimo. Sì, poi tra parentesi non vuol dire niente. Cioè, uno si potrebbe fare le pippe su che vuol dire questo nome, ma in realtà non vuol dire nulla. E venne pubblicato ufficialmente nel 2006. Ma qui c'è un errore. Effettivamente tutta questa storia inizia con un errore, perché il brano fu leakato nel 2005, cioè già nel 2005 succedevano queste cose. Il brano fu erroneamente mandato in radio dalla BBC prima della pubblicazione ufficiale, tanto che fu anche utilizzato a un certo punto per una pubblicità, così a caso, e capita. Comunque, alla fine venne pubblicata ufficialmente senza errori nel 2006 e rimase in cima alle classifiche britanniche per 9 settimane, il periodo più lungo in prima posizione da oltre 10 anni, e fu eletta canzone migliore del 2006 dalla rivista Rolling Stones, quindi bella roba. Tanta roba. Furono realizzati 2 video per il pezzo. Il primo, richiamando il tema psichiatrico, mostra delle macchie di Rorschach che danzano una nell'altra, mostrando il duo e il duo di Gnars Barkley, perché continuo a dirlo, e il logo del gruppo. Le macchie fanno parte di un test psicologico che consiste nel valutare la personalità di un paziente a partire da disegni ambigui, fatti in questo caso da macchie d'inchiostro, un test che fu formalizzato da Rorschach a fine 800. Oggi va così, difficile dirlo, ma, è Madonna difficile. Santa, cioè, ma perché ho fatto questa cosa? Vabbè, Viola. Pensa a Bruce Springsteen, vedi, passa tutto. E per via del tema facciamo anche errori di pronunce su 100 Celle Avengers. Bristi. Non lo dimenticheremo mai. Dicevo, questo test fu formalizzato da Rorschach a fine 800, ma l'idea era, pensate, già stata introdotta ai tempi da Leonardo da Vinci e Botticelli. Lo fanno nel 500. Ma dai, addirittura. Sì. Il secondo video è invece un promo in cui vengono mostrati, animati, dei simboli provenienti da molte culture e religioni senza troppa armonia col testo. Di cosa parla questa canzone? Danger Mouse, uno dei membri del duo, descrisse così la nascita del pezzo. In qualche modo mi sono lasciato trasportare da questa divagazione su come la gente non prenda sul serio un artista a meno che non sia pazzo. Così abbiamo iniziato a discutere scherzosamente di come avremmo potuto far credere alla gente che fossimo veramente pazzi. A naso, le emozioni di cui parla vengono descritte non soltanto dalle parole del pezzo, ma dagli accordi e da un testo molto raffinato, pieno di piccoli dettagli e di sfumature. Proviamo a seguirle. Nella prima strofa parla di come l'artista sia solo nella sua testa con la sua musica o con la sua arte e si sente malinconia per la solitudine che descrive, infatti è in minore, ma anche l'orgoglio di sentire una consapevolezza maggiore rispetto agli altri, e è in maggiore. Nel ritornello si chiede 3 volte se questo lo qualifichi come pazzo, ripetendolo come un mantra, ammettendo che potrebbe essere possibile. Nella seconda strofa parla delle altre persone, augurandosi che siano felici della loro vita, in maggiore, ma in fondo biasimandoli per l'etichetta che gli mettono addosso, in minore, quando lui stesso pensa che i pazzi siano loro, proprio come lui, o perlomeno come lo amano definirlo. Nella terza parte invece parla delle persone che ammira, che hanno avuto il coraggio di vivere senza freni ed accettando dei rischi in maggiore, e del fatto che seguendo il loro esempio ha continuato sulla strada della musica e continuerà a farlo finché avrà vita. Il pezzo si conclude con un forse che indica come pazzo prima se stesso, poi gli altri e poi persino tutti quanti. Stavolta non più con un leggero possibly come nella prima strofa, ma con un più forte probably. Così e poi è come la vedo io, eh? Ma leggiamo la traduzione del testo così che possiate farvi la vostra idea, come sempre. Maestro, mi mandi il background. Mi ricordo quando ho perso la testa. C'era qualcosa di così piacevole in quel posto. Persino le tue emozioni hanno un eco in tutto quello spazio. E quando sei lì, senza alcuna remora, già, io ero così irraggiungibile dal resto del mondo. Ma non era perché non sapessi abbastanza, era solo che sapevo troppo. Questo vuol dire che sono pazzo? È possibile. Spero che tu stia vivendo il momento più bello della tua vita, ma pensaci due volte. Questo è il mio unico consiglio. Su, chi ti credi di essere, povera anima? Credi veramente di avere il controllo? Sai, io penso che tu sia pazzo, proprio come me. I miei eroi hanno avuto il coraggio di vivere la propria vita rischiando, e tutto ciò che ricordo è vorrei essere come loro. Sin da quando ero bambino pensavo che fosse divertente, e non è una coincidenza che sia arrivato fin qui. E potrò morire soltanto quando sarò esausto. Ma forse sono pazzo. Forse tu sei pazzo. Forse siamo tutti dei pazzi. Probabilmente. Applauso. Non chiamato. Assolutamente spontaneo. Siete d'accordo con la mia interpretazione o avete visto altri significati? Scrivetecelo su Telegram. Nel mentre la rubrica finisce qui e vi lascio proprio con Crazy di Gnarls Barkley. Radio Porte 100 Celle Avengers in diretta in questo sabato 13 dicembre. E ci siamo sentiti un po' di aver cominciato senza dare le giuste coordinate, giusto? Giusto, dove c'è da dare informazione, eccomi qui. Cioè, se qualcuno già avesse raggiunto il lettore che è utile a sentire questa puntata, in realtà secondo me sta già un pezzo avanti. Il lettore. Però nel caso, il lettore nel senso multimediale, ah, il player, il lettore. Il player sul sito del Forte che ti permette di sentire la radio. Se già ti ha funzionato tutto quanto, sai già dove ascoltarci. Stai messo bene, però. Però ricordatevi che potete scriverci sempre sul canale Telegram. Ne siamo proprio contenti se volete aggiungervi. Siamo già un nutrito numero di seguaci. Siamo circa una trentina sul gruppo Telegram che è Radio Forte 100 Celle Avengers. 30.000 nel senso. 30.000, sì. 30K. Scusate, ragazzi. K. Ma noi siamo umili, insomma. È così che poi si arriva al successo. Siamo umili. Ricordiamo ancora che potete sentire questa puntata, che è la numero 60, ricordiamola ancora, facciamoci un applauso, siamo già una 60 puntata. Vabbè, tu poi vabbè, fai tutto più grosso di quello che è. Ma insomma, come il festival. Si diventa anziani a 65, quindi siamo ancora dei pischelli. Siamo ancora dei giovanissimi radiofonici. E, ascoltate queste questa puntata e le altre sul sito del Forte Prenestino /Radio Forte. Certo, c'è gli Avengers. E l'altro invito è anche a venire qua. Esatto, bravissimo. Esatto, volevo dire che siete top. Benvenuti sul soppalco dei nostri. Qua. No, qua. Vabbè, dire qua io un po' troppo. Aspetta, questo no. Meno. Vabbè, se allora, regge, le porte dei Radio Forte da dove stiamo trasmettendo sempre sono sempre. Poi arriva Guido, però, capito? Se venite qua, portate da mangiare o da bere. Sì. Da bere. Io dicevo qua al Forte comunque. Una cioccolata calda la potete sempre portare. E se non volete, come dire, scalare il soppalco e arrivare fino a quassù dove ci troviamo noi, vi invitiamo a comunque a partecipare alla serata che ci sarà stasera al Forte, la Fashion Drag Show antifascista. La serata è Fascino, appunto, in una edizione antifascista autunno-inverno House of Sbelletti e Roma Trash All Stars. E una serata benefit per il centro sociale anarchico Disgrasa di Lisbona. Applauso. A partire dalle 22 saremo qua, quindi con della ottima musica e non solo. Venite e partecipate. Vedi, andare in onda più spesso, come ci si trova in mezzo all'azione. Già, il secondo sabato che siamo qui, e qui davanti a noi praticamente adesso diventerà un bar. E noi dietro. E noi è bellissimo. Non beviamo. Chiacchieriamo. E quindi che stavamo a te la quindi, parola? Niente, è un momento che mi emoziona perché... nel tentativo di stare appresso al tema dell'errore, ho detto che cazzo, cioè, ho fatto un sondaggio professionale. Scusate, un deep dive. Volevo dire... Questo era un tema facile comunque. Cioè. Insomma, mi sono perso nelle mie teche, nei miei archivi. Ricordo che 60 anni fa, quando cominciammo. No, vabbè, rubriche che non ricordavi di aver fatto. Cioè, poi uno le cose le lascia così, come i giocattoli dei bambini. Ah, poi non ci giochi più. Cioè, voglio dire, torna una grande rubrica con una grande sigla che non ricordo neanche come fa. Cioè, per dire quanto tempo è passato. Vero, sì. E che cerca di andare appresso al tema dell'errore. Allora, la rubrica è Campioni del mondo, che si occupa di campioni. Nel senso di sample del mondo, campionamenti, ma il gioco di parole ovviamente va da sé. E niente, mi rimane da dire sigla. Lo scodinzolo dei cani, campionato! Il coccodrillo, campionato! Il gufo con gli occhiali, campionato! La luce di un mattino, campionato! Campionato! Il mondo, campionato! Campioni! Ogni nota che sento Ma che spettacolo! Oh, ma è una roba questa sigla. Ebbene. Senti, ma visto che si parla di campioni, posso fare una postilla a Canta Responsabilmente, perché l'ho dimenticata questa cosa? Prego. Crazy, in realtà la prima parte è un sampling di un pezzo, pensate, del 68. Campionato. Che si chiama Last Man Standing, che viene, pensate, da un vecchio prequel unofficial di Django, che si chiamava Django Under the Coffin. Comunque voi con Django state fissa quest'anno. Madonna, veramente. Applauso per la dotta notazione di Betta la dotta. Bene, quindi riprendiamo le fila che ho perso, perché colpa mia. Per colpa mia che affronto questo mondo che è fatto di campioni. I campioni sono dei file di piccole dimensioni. I file di piccole dimensioni confondono le cartelle, le menti della gente, delle giovani persone, e io non sono neanche una persona. Vedi Iron Man cosa vuole dirti? Non fare così. Ecco. Ok. Allora, vabbè, intanto metto questo. Che è successo? Così, come ricordo di cosa era Campioni del Mondo, questi erano i suoni della presa bene. Era tipo un giracoso, come si chiama? Una chiave inglese di quelle a click. Poi c'era il pianoforte, insomma, vabbè, avevo fatto questa minchiata. E tanto tempo fa mi faceva piacere di farvela sentire, e soprattutto perché mi fa il gancio con quello che stiamo per andare a sentire, cioè una di Sa Mina, ma grande, cioè di tanti file di piccole dimensioni, che riguardano sempre i suoni della presa bene, i suoni della presa bene di cui ci siamo rivestiti la vita in questo momento storico, che non è quello di qua, che stavo con la chiave inglese trick e track, cioè i suoni della presa bene erano quelli. Adesso il nostro mondo, parlo di me e di Grabri Emilia Gadda Grubri, è fatto di giochi. Salutiamo il nostro piccolo Filippo che ci ascolta a casa con i nonni. Bello del zia. Vai con i suoni. No, vabbè, intanto Bello. Stava Amore. Salutando anche Pippo. Comunque, esattamente, stiamo parlando di una ricerca fatta nel mondo che comunque forgerà in qualche maniera i primi pensieri del giovane Skywalker Pippo. Quindi c'è, cioè, la convinzione che tutto il mondo sia una fattoria, insomma varie cose che possono passare come messaggio attraverso i giochini. Però allora, anzitutto io parto da uno che mi fa da sottofondo anche. Questo è un pezzo grosso della nostra artiglieria. Trattasi del gufetto malinconico. Allora, Madonna, gli si perdona questo fatto di essere così malinconico, perché mi fa audio e luci. Cioè, una ditta di quelle grosse. Serio? Quindi ti viene con audio e luci. Cioè, voi adesso non lo potete vedere, ma sul soffitto sono proiettate delle stelle, e questo upgrade quindi me lo rende abbastanza, insomma, no? Piacevole. Piacevole, nonostante appunto questo, cioè, comunque io non vorrei, cioè, uno quando si addormenta, quando Pippo si addormenta deve avere pensieri positivi. A me questa, cioè, questo è l'inizio di una puntata di Game of Thrones. Qualche Marco speranza Shining per il domani, però insomma un pochino mi fa dormire angosciato. Se non fosse che a un certo punto, nella quarta playlist nascosta del giocattolo, senza pagare i diritti a nessuno, c'è The Sound of Silence. Gufetto malinconico, scusate, applauso. A gufetto recupera malinconico. Tutte Salutiamo le posizioni. Plagio. Sono voluto partire con un pezzo grosso perché comunque immagino Filippo, se adesso ci sta ascoltando, certamente lo sta facendo. Starà, ma questa avendo... non ci arriviamo mai a questa la metto sempre io perché mi piace, ma tocca comunque gufetto, c'ha un altro difetto che fa anche rima, che c'ha un botto dei tasti che al buio non capisci niente, solo Pippo sa cosa accende e spegne. È come noi in radio, e quindi, esatto, è un po' come una puntata di 100 Cell Avengers, però al buio nel letto, che se sbagli il pulsante lui si sveglia. Quindi, e parte un brano che ha scelto Francesco, metal, tutte le luminarie. Vabbè, andiamo avanti con qualcosa di più smaliziato, roba che comunque aiuta il linguaggio, cioè diciamo l'utilizzo delle lettere e un po' l'inno nazionale dei primi anni, sì, dei primi mesi di Pippo, che è Gertrude, che è un po' l'uomo tigre. è l'uomo tigre che lotta contro il male. Bravinetto, che bello. Non è solo la malvagità. Devi un po' cambiare le armonie, ma siamo lì. Siamo lì, siamo lì. Ah, sì, sì, ma sono tutti dei plagi questi. Di uccellino, ok. Quindi, passando ma è per... di Bambi sto coso? Eh? È di Bambi? No, questo no, qui è un computer, è un laptop. È un piccolo laptop. Ecco, adesso invece stiamo, diciamo, rapidamente ascoltando il libro della cacca. Ma che allora che riporta comunque tutti i possibili rumori che si generano quando, insomma, ci si lava, ci si sciacqua, si... Certo. Vi ho tolto un attimo il piacere di sentirli bene, ma anche no. Dopodiché la fattoria, come dicevo prima, l'immaginario è il primo che gli diamo, perché si vede che, insomma, al di là del così di come è sempre stato, mo quest'anno ci sta Lollobrigida che ha spinto qualcosa nel settore dei giocattoli. Comunque tutti i giocattoli rifanno, cioè si rifanno a una fattoria, per cui ci sta questo qui e ci sta anche il trenino che porta alla fattoria. Che è lui? Un trenino. Ecco, l'ho warpato per così, scusate. 2x, 1x, 0,5x. Io mi sto ma sempre di più sarà? Chiedendo se state bene, ragazzi. Comunque, se va tutto a posto. No, okay. Lavaggi del cervello. Cioè, comunque, esatto. mi ci trovo bene. Poi okay, ci sono cose che appunto trovo utili. Cose che, per esempio, ecco, questo qua, no? Linguaggio sempre. Ma che è una puntata di Twin Peaks? Allora, sembra un nano malefico di Twin Peaks. Avete ragione. Quelle scene in loop di David Lynch. Sì, sta sì, cercando sì, di dirvi le lettere, le consonanti, però le consonanti sono già difficili. Hai per fatto un bambino. Ma io te allora, posso dire. Scusate. Come? Tenda. Ma come? Skateboard. Come? Cucina. Ma come? Cioè l'intenzione è pure apprezzabile, però cioè, proprio non sembra lo capisco il nano io, non riesco neanche a figurarmi come la possa prendere Pippo. Andiamo un pochino all'internazionalità della questione, perché comunque Pippo c'ha anche questo problema di nascere, diciamo, in un crocevia di culture internazionale, per cui intanto c'è la Francia che predomina e salutiamo zio Luca. Così, applauso nominatissimo. E poi c'è il libro dei BRICS. Cioè, chiamo il libro dei BRICS perché praticamente è un libro che si chiama Musiche del Mondo, ma riporta soltanto alcune parti del mondo. Questa, che se non sbaglio, era la Cina. Oddio, questa è cosa? Anzi, no, scusate, quella era il Brasile. Scusate, questa è il Brasile. Che risuoni come sempre nidi. È Sheikh Senora questa. Signora, giusto. Mentre questa era la Cina, questa è l'India. Ottimo, questi sono i Beatles, infatti. Questa è la Russia. Quindi fino a mo' avete sentito solo stati. E poi questo lo chiama Africa. Cioè, per nome a quel punto di Sudafrica fai BRICS proprio. Cioè, come al solito, l'Africa è uno stato solo. Che non abbiano copiato. E soprattutto c'ha solo uno strumento musicale, che è questo qua, che non mi ricordo qual è esattamente. Sitar, mi sembra, forse. No, il sitar, no, è indiano. Hai sentito abbastanza Beatles. È un errore, e oggi è consentito. È vero, brava Gabri. Comunque, vabbè, insomma, è sempre utile viaggiare, lo sappiamo, insomma. Sirtaghi. Il Sirtaghi. Andiamo a un grande tormentone che ci ha accompagnato. Ciao! Lei è forte. Perché? Perché poi andiamo sempre sulla musica. Senza voler essere pressanti, assolutamente, però poi finisce che spesso si va su quel tema e quindi, cioè, non ho citato, cioè non ho campionato, perché non ha difetti, non ha errori, il giocattolo che mi è stato regalato dalla scuola di musica, perché poi posso fare l'applauso, è l'unico polifonico, dei vari pianoforti che sì, abbiamo sì, ricevuto. Quello che utilizzerai al saggio quest'anno. L'unico, immagino, esatto, che permette di premere più di un tasto insieme. Ma siamo noi. Possiamo fare e, quindi, beh, cioè, in realtà arriva, cioè, arriva primo, dopo, cioè, un secondo pianetto, che è lui, che è uno di quelli, cioè, anzi l'unico che ci ha permesso di aprire il mondo dei diesis e dei bemolli, perché comunque pure quello mancava. E quante canzoni non puoi fare senza i diesis? Cioè, valla a dire a Pippo, spiegaglielo. Esatto. A un certo punto è stato risolto anche questo problema. Poi insomma abbiamo, diciamo, spinto sempre su... Vabbè, ma grande. Niente, qua c'è, cioè, il DJ che è impazzito oggi per il 2 per. Oddio, perché mi ricorda Fantozzi? È un po' vero, è un po' l'anno vero del Charleston, potrebbe, per favore. Potrebbe. E quindi direi che siamo giunti quasi alla fine di questa disanima. Mi sia concesso di citare Betta. Chiamo gli amici gatta con me. È una giornata di sole alla fattoria. Ciao! Oh, Madonna! Chiamo gli amici gatta con me. Betta, questa, di ciao, ti prego. Vagamente rassomigliante. Canta responsabilmente. Gli amici gatta con me. È una giornata di sole alla fattoria. Ciao! È stato, è poco apprezzabile, nel senso che non si può apprezzare l'espressione di Pippo quando ha sentito Betta fare ciao. Sì, no, sì, raga, pensava di avere il giochino davanti in carne e ossa. Cioè, non avete capito, non avete capito che faccia ha fatto, tipo, emozioni impagabili. Ma allora esiste. Che uno lavora, si fa una vita, fa quello, però questa era proprio l'obiettivo. Che bellezza. E quindi per chiudere questo elenco in musicale, intanto occhio alle orecchie, vi ricito un'altra volta il nostro Natale minore, che è uno forse l'errore che mi ha fatto pensare di andare su questa, su certo, questo argomento, e che vi ho fatto sentire l'altra volta, quindi occhio alle orecchie, ripeto, che è il mio Natale minore. Beh no, così mi hai elevato proprio. Pavimento, cioè, sentite questo accordo minore sbagliato, vabbè, è inutile che ve lo dica, sembra una di quelle dolore cose che stanno su YouTube della gente che fa i pezzi sì, rieditati tipo... in minore e in maggiore, ormai è pieno, anzi, ormai te li fanno pure quei modi in misolidio, in, vabbè, niente, su queste cose ci si perde. Comunque, appunto, finendo sul musicale e forzando, come al solito, nostro figlio su cose, appunto, come... Ciao, ti piace la musica? A me tantissimo. Madonna, cantiamo qualche bella canzone. Gira le pagine. Cioè, il DJ mi sta rovinando questi che sono già degli audio. Ciao, ti piace la musica? A me tantissimo. Degli audio faticosi da sentire. E comunque nel forcing ci sta anche la funzione che hanno, e chiudo, i giocattoli di recall, la chiamiamo così. Cioè, quella funzione secondo la quale tu, dopo che ci hai giocato un pochino, lo molli e dopo circa 50 secondi, un minuto, lui comunque ti manda un richiamino per dire sono ancora qua, a te bambino. Cioè, non Duolingo si lascia, dei giochi. Non si lascia abbandonare così. Sì, Duolingo mi hanno detto che è un po' violento. Sì, a sì, livello sì, di... sì, sì, sì. Diciamo che ti rispamma, comunque ti dice io sono qua e quindi... Cioè, ehi, dove sei? Non ancora. Cioè, no, io a stai... gente così te lo dico, Tu magari sei passato pure a fare altre cose. Ehi, sei... Non te lo ricordi sei? Più, immagina nel buio. Suona ancora. Ti arriva questa, questa cosa. Quindi, insomma, poi mi sono immaginato appunto che se esageriamo. Cioè, rischiamo di esagerare con Pippo, cioè deve scegliere lui di suonare, di essere musicista. Sì, comunque a sto ragazzino serviranno vari mesi di terapia da adulto, dopo tutta sta roba. Sì, sì, sì, per capire che non gli piace la musica. Io voglio fare il muratore. per chiudere veramente questa parentesi incredibile. Ma dai, dillo, dillo, disamina. No, no, no, parentesi incredibile mi sembra molto più corretto. Parentesi incredibile. Disanima. Abbiamo una sottorubrica, o comunque la rubrica di servizio di Centocelle Avengers, che si chiama Centocelle Amarcord, il saggio che non sapevi di aver fatto. A proposito di errori, dici? A proposito di errori, brava. Uh-huh. Che ganci che becchiamo. Però mi tocca farvi sentire la sigla. Sì. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa. Ti ricordi. Pure estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa. Messaggio per un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa. Ricordati di me. E dal saggio di questa ultima estate fa ascoltiamo i fiori in un pezzo, diciamo, si può dire iconico. Sta un po' antipatica ormai questa parola perché la usano tutti, però diciamo rappresentativo di quello che è la musica di Insieme per Noi, quindi forse didascalico, ecco cosa volevo dire. Mm-hmm. Insomma, un po' così anche scontato, ma bellissimo, una musica può fare. Wow! Evviva! Una musica può fare cantare li li li o la la la maggiore. Una musica può fare cantare i ninni o na na na. Una musica può fare dove sei, non mi vuoi, stai con me. Una musica può fare dove sei, non mi vuoi, tanto uguale. Una musica può fare salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la musica può fare. Salvarti sull'orlo del precipizio, non ci si può. I bambini la notte. Una musica può fare solitudini sbagliate, a darci da mangiare, solitudini bastate, a farci innamorare sotto l'armadio. Una E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers è arrivato il momento di prendere il quadernetto e pennetta e vedo brutta passare, oggi interroga? Io nel frattempo ho scoperto che potrei mangiare mandarini all'infinito grazie a Gabriella. Così non interroghi, va bene. Tipo va un bene. Pomer quando va all'inferno e mangia le torte, tipo quelle cose. Questi vengono dalla Calabria. Mamma mia. Allora parliamo dell'infinito. Spero ne sia rimasto uno. Sì, è tuo. Ma visto che il tema della puntata è l'errore, ma secondo voi si può fregare la matematica? Si può indurre in errore la matematica? No. La risposta è... sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. È vero che vi interessa? Sì. Interessa, sì. Interessa. Sì. Interessa. Sì. E allora, care varietà topologiche, benvenute a Welcome to Grand Hotel Hilbert. La rubrica paura. Che vi deriva e poi vi integra e poi vi integra. E nonostante ciò, sentite che in voi non è cambiato nulla, tranne qualcosa di trascurabile. Allora, avete presente il meme dell'impiegato che prende tutti i suoi fogli da lavoro e li butta al vento esclamando "Fuck this shit, it's Friday". Poi però si pente, li raccoglie, li risistema e dice che gli serviranno per il lunedì che verrà. Ebbene, immaginate quei fogli come gli assiomi della matematica. Purtroppo, per fortuna, senza degli assiomi che definiscano i concetti base di una determinata teoria, in matematica non si va da nessuna parte. Ma è veramente possibile allora fregare la matematica? È veramente possibile andare contro a degli assiomi incontrovertibili? Ebbene, no, nel senso che quei fogli di lavoro li dobbiamo necessariamente avere, ma magari non è detto che siano necessariamente gli stessi, o che magari siano risposti nella stessa maniera di prima. Insomma, come dei pittori insoddisfatti della nostra tela, possiamo modificare i colori di partenza per ripartire da zero, o alternativamente modificarli per ottenere un risultato diverso dalle aspettative di partenza. Ed è stato questo storicamente il caso delle geometrie non euclidee. Ma partiamo dalle basi. Cos'è innanzitutto la geometria euclidea? La geometria euclidea è la geometria che storicamente è nata dai cinque postulati formulati dallo scienziato alessandrino Euclide, che la descrisse nei suoi elementi. Tale geometria consiste nell'assunzione di cinque semplici e intuitivi concetti, detti appunto assiomi o postulati, e di altre proposizioni, cioè teoremi, che non abbiano alcuna contraddizione con essi. Questa organizzazione della geometria permise l'introduzione di concetti quali la retta, del piano, della lunghezza e dell'area. Tanto per capirci, per dare un riferimento, la geometria euclidea è la geometria che si studia nel biennio di matematica dello scientifico, quella dei criteri di similitudine dei triangoli, non so se qualcuno se ne ricorda. Sì. Okay. Certo, purtroppo. Ve lo ricordate? Ok. L'approccio della geometria euclidea è di tipo astratto, cioè non sono presenti elementi di natura concreta come misurazioni numeriche di lunghezze o angoli, in quanto lo scopo della geometria euclidea è quella di dare una descrizione dello spazio per confronti e criteri tra elementi, a prescindere dalle caratteristiche di grandezza di un qualsivoglia oggetto. Ok. Come detto in precedenza, tutta la teoria della geometria euclidea si basa sui famosi cinque postulati o assiomi di Euclide, che di seguito elenco. Primo postulato: congiungendo due punti qualsiasi si ottiene un segmento di retta. Secondo postulato: si può prolungare un segmento oltre i due punti indefinitivamente. Terzo punto: dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio. Quarto punto: tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro. Quinto punto: se una retta che taglia altre due rette determina dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, prolungando le due rette, esse si incontreranno dalla parte dove i due angoli hanno somma minore di due retti. Allora, si nota subito una differenza tra i primi quattro, che sono insomma abbastanza intuitivi, e il quinto, per il quale si utilizza di solito una formulazione equivalente e più intuitiva, e cioè che per un punto esterno a una retta passa una e una sola retta parallela a questa. Ah, te lo stavo per dire che c'era quello delle parallele. Esatto. Ma pure io. Esatto. Io ho le lacrime agli occhi. Sei proprio falso come una moneta da 3 euro. Sei falso. No, perché mi sei alzato, sennò io, vabbè, prego. Questo ti ha spinto a rimanere. Secondo Euclide, infatti, mentre per dimostrare i primi quattro postulati basta usare riga e compasso e restano validi anche se ci si limita a una porzione finita di piano, il quinto postulato delle parallele non è evidentemente vero. Infatti non rimanda ad alcuna costruzione geometrica che possa limitarsi sempre a una porzione finita di piano. E pare che lo stesso Euclide non fosse convinto dell'evidenza del postulato, e questo è dimostrato dall'uso limitato che ne ha fatto nelle dimostrazioni dei teoremi della sua geometria. Negli oltre 2000 anni successivi alla diffusione degli elementi di Euclide, molti sono stati tentativi di dimostrare questo benedetto quinto postulato, o di riformularlo, o addirittura di sostituirlo con altri equivalenti. Tuttavia, tali tentativi sono falliti, in quanto i ragionamenti riconducevano sempre all'uso del quinto postulato. E quindi è tipo la prima regola del club tautologico, è la prima regola, e quindi non va bene. Nei primi decenni del XIX secolo, il fallimento di tutti i tentativi effettuati aveva convinto i matematici dell'impossibilità di dimostrare il quinto postulato. È da questo momento che comincia a farsi strada l'idea di costruire altre geometrie che facciano a meno del quinto postulato. Nascono così le prime geometrie non euclidee e i loro modelli. Lo scopo dichiarato era quello di costruire delle geometrie errate, attenzione, tramite procedure di dimostrazione per assurdo. Tra l'altro recuperatevi la puntata 42 dove parlo delle dimostrazioni per assurdo. Ma nonna, tu sai le puntate in cui hai parlato delle... No, vabbè. No, non è vero. Me le so controllate adesso. Ah, okay, ok, ok. Era più affascinante, se dici. Era più bello. Vabbè, io ricordo così. Tutto. Io ricordo ogni cosa. Per dimostrare sto benedetto quinto postulato. E invece, come i più grandi underdog della storia, le geometrie non euclidee ribaltano i pronostici, diventando non solo valide a tutti gli effetti, ma fondamentali all'interno di tantissime teorie matematiche moderne. Sì, va bene. Ma quali sono dunque queste geometrie non euclidee? Ce ne sono ovviamente un'infinità. Vi giro di seguito alcune delle più famose. La prima è la geometria riemanniana, o geometria ellittica. Con la pubblicazione del 1854, prego maestro del primo contributo. Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen. Okay. Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen. Scusa. Non potevi dire a me che lo pronunciavo io, però. Scusa, questa chi gliel'hai fatta dire? Conosci il tedesco? Lo so pronunciare. Grande, non lo sapevo. Hypothesen. Lo vuoi leggere? No, no, è così. Lo saprò pronunciare fra un po'. Un po' di riscaldamento. E, tra l'altro ringrazio e saluto Silvia che si è prestata a leggere il titolo dell'opera di Riemann, la cui traduzione è Sulle ipotesi su cui si fonda la geometria, pubblicato postumo nel 1867, tramite il quale Riemann getta le basi di una geometria totalmente nuova, detta geometria riemanniana, in cui il problema delle parallele non si pone nemmeno, sostituendo il concetto di retta con quello metrico di curva geodetica, ossia il percorso di minor distanza tra due punti. Si possono così costruire geometrie a curvatura costante, oppure che variano in ogni punto, in qualunque numero di dimensioni, ognuna corrispondente a una superficie, detta varietà riemanniana n-dimensionale. Quando andiamo un po' sul difficile. Ah, qua! Qua! No, prima tutto chiaro. Vabbè, dai, ho la geometria euclidea. Oh, io ho fatto il classico, ma che vuoi? Ho capito, dai. Oddio, questa frase l'ho... Niente vergogna. Ce l'ho uguale, campionata in varie... Sempre mia. Sempre tua, io ho fatto il classico. In quest'ottica, la geometria euclidea, pensate un po', è la geometria naturale del piano, quindi è contenuta all'interno della geometria, è un caso speciale della geometria riemanniana. Il piano. Pensate. Cioè, piano. L'avresti detto tu? Piano bidimensionale. Piano. No, io parlavo del piano. Vabbè, lo so. Maledetti musicisti. Abbiamo, sembrava tipo Ratman, abbiamo un piano. Vabbè, scena che piccettino prende il piano. Vabbè. Tutto parte dalla negazione ovviamente del quinto postulato di Euclide, che viene sostituito con quello che oggi viene indicato come assioma di Riemann. Due rette qualsiasi di un piano hanno sempre almeno un punto in comune. Quindi anche quelle parallele si incontrano. Oh. Pensateci un po'. Oi, oi. Altra meritevole di citazione è la geometria iperbolica, nata nel XIX secolo. Inizialmente non fu considerata pensate un po', nemmeno una vera geometria, ma solo una curiosità derivante dalla negazione appunto del quinto postulato di Euclide. Con il tempo, grazie a studiosi come Lobachevsky e Bolyai, spero di averli pronunciati bene, si è riconosciuto che essa costituisce una teoria autonoma con proprietà e definizioni proprie. Questo sviluppo mostra come, modificando un solo assioma, si possa creare una nuova struttura matematica completa. Nella geometria iperbolica emergono nuovi enti geometrici come iperparallele e orocicli, con caratteristiche interessanti. Essa si basa sul principio che, dato un punto esterno a una retta, esistono almeno due rette parallele alla retta iniziale. Oltre a queste due, ovviamente ne esistono un'infinità di altre. Andatevi a vedere per curiosità la geometria del taxi, che io non conoscevo. Comunque è una geometria non euclidea, anche questa. Ma sono comunque geometrie non rappresentabili con i nostri mezzi? In realtà sono graficamente sono rappresentabili, è solo che diciamo che no, non vi aspettate di vedere triangoli, cerchietti, cose così, insomma, roba abbastanza figa da vedere. Molto artistica. Allora, per oggi c'è pure il dibattito. Per oggi il vostro soggiorno all'Hotel Hilbert finisce qui, lasciandovi con questa morale: non seguite sempre gli stessi binari e non abbiate paura di commettere errori. Magari succede che una cosa che consideravate sbagliata diventa improvvisamente ancora più bella e interessante di tante altre. Oh. Ma come fa? E visto che chi commette errori e poi si riprende vuole avere indietro tutto quello che aveva una volta e forse anche di più, dalla colonna sonora di Cowboy Bebop vi lascio con Want It All Back di Yoko Kanno, per voi. All my mind. 100 celle avanti. Oh ma! E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, ancora un po' frastornato da questa lezione del maestro Franci, che oggi ci ha sfonnato, diciamocelo. Mamma mia. Devo rifletterci, devo riascoltare in un comodo podcast, cose più difficili, in un comodo podcast questa puntata sul sito del Forte. Radio Forte, vai, vai, niente, pensavo che la giornalista Gabri Grubi mi stesse aiutando. Comunque, con la al lancio. Allora, no, 3 secondi al lancio, 10 secondi al lancio. Radio Forte, vabbè, niente, per sentire la nostra puntata in podcast e capire che cosa ha spiegato il maestro Casali, perché comunque ripetita era un'usanza quella di andare col registratore, col mini disc, non so se vi ricordate, all'università a registrare le lezioni, perché poi lì un mio amico che lo fa ancora. Cioè ti arrivano queste legnate che non capisci, si registra poi i concerti col mini disc. Ah, i concerti. Ciao Saul. I concerti salutiamo Saul, mi sembra più sensato. Le lezioni era proprio una roba anche perversa, e poi c'era chi le sbobinava direttamente tutte proprio, e poi se le... cioè vabbè, niente, io lo faccio pure MD. C'era chi in realtà magari tutti, io perché sono preso la terza laurea e poi mi sono stancato. Comunque cosa? Passiamo Iron Man, non ci credi? Passiamo la parola a qualcuno che almeno ce l'ha veramente. Allora, vabbè, no, solo una parentesi, sì, quadra. Scusate, una parentesi quadra. Durante la canzone c'era Giorgino, vieni qui Giorgino. Sì, devi formulare. Fate un applauso a Giorgino. Che dalle retrovie. Giorgino che mi passa in avanti. Ci poneva la seguente domanda, prego. A proposito Giorgino, di quello che abbiamo appena ascoltato. In maniera quinto assioma sbagliato di Euclide, o comunque gli errori nelle matematiche hanno a che fare col teorema di incompletezza di Gödel? Bam! Cioè, così. Allora, diciamo che questa è un po' la gente rumoreggia. L'opinione che si muove. Silenzio in classe. Allora, se prendiamo l'esempio della geometria riemanniana, la geometria riemanniana è un esempio di come vuoi allargare una teoria. Cioè, nel senso, non riuscendo a dimostrare il quinto postulato di Euclide, si è giunti a formulare la teoria della geometria riemanniana semplicemente introducendo dei nuovi assiomi che hanno reso la geometria euclidea un caso particolare della geometria riemanniana. Quindi la geometria riemanniana, per andare incontro a quello che dice Gödel, è sostanzialmente quel sistema più ampio dove viene praticamente spiegato anche il quinto postulato, che non si riesce a dimostrare all'interno della geometria euclidea, fondamentalmente. Sei soddisfatto, Giorgino? Quindi ci sarà mai una matematica che non è mai sbagliata? Questa sì che è una domanda. Beh, no, seria. Nel senso che tu puoi fare questo gioco delle scatole includenti all'infinito. Cioè, finché riesci a trovare un sistema che ti spiega qualcosa che c'è prima, però allargando le ipotesi. Franci, ma veramente stai facendo? Calla, è finito. Questa sempre in canna. Tra l'altro, facciamo gli auguri. Facciamo gli auguri a Angie. Auguri alla nostra cara Angie. Primo piano della nostra scuola di musica. Il primo piano. Vero. È iniziato, sì, ben 11 anni fa, ormai possiamo di dire più, di 12, più, mamma mia, 13, come passa il tempo, 13. Sono 13. Ecco, 13 anni fa è il primo piano, sì. Ancora auguri, Angie. Bene, se la curiosità così su aneddoti e faccende matematiche si è esaurita, risolta, non so. Direi di sì. Sì. E ultima postilla, andatevi a leggere Gödel, Escher, Bach. Fidate. Ok. Fidate. Non mancherò. Bene. Un'eterna ghirlanda brillante. Grazie. Gabri, falla facile, bene, questa, ragazzi, ti prego. Sì. Adesso passiamo a un argomento molto più leggero. Sì, come sempre si parla di accordi commerciali. Quindi, insomma, roba di piccioli. Sì. Pochi spiccioli. Cigni di Balacà torna sfumeggiante con una grandissima puntata. Bene, maestro, prego, innanzitutto puoi mandare la sigla di Cigni di Balacà. Ma papà! ma papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Baragà? Eccoci rientrati, restiamo quindi sull'informazione calda, queste notizie che ci sconquassano, siamo sul pezzo, perché avrete sentito di questa notizia accaduta in fondo pochi giorni fa, il 5 dicembre, che è successo? Che è successo ragazzi? Io l'ho sentito niente meno annunciato da Mentana al TG e ho detto tutto. Netflix, conoscete tutti la nota piattaforma di streaming, eccetera, Netflix, ha acquisito niente meno, Bristi. Ragazzi, è successo che Netflix ha comprato la Warner Bros. Male, e su questo io direi che possiamo anche... Esatto. Però io sapevo discutere, no, ragionare. Che la cosa non era chiusa. Sei ben informato, ma devi sapere che le ultimissime notizie, proprio perché noi stiamo sul pezzo, ci dicono che aggiudicataria di questa asta è stata Netflix, proprio lei. E sì, perché c'è stata una contesa tra Paramount e Netflix. Sì, dici bene. Tra l'altro c'è stato di mezzo anche Trump, ma diciamo che è un capitolo che non voglio troppo approfondire da questo punto di vista. Mannaggia. Mi limiterò a raccontarvi i fatti, perché è successo quindi il 5 dicembre che Netflix appunto si è aggiudicata l'asta di acquisizione della compagnia insieme agli studi cinematografici e televisivi e al servizio di streaming HBO Max, quindi insomma un bel malloppo. E ovviamente questa notizia è stata presa, accolta da Hollywood e non solo, come un terremoto annunciato. Si parla di guerra dei Roses, che vede proprio minato l'equilibrio che comunque già era precario, no? Tra il mondo dello streaming e quello delle sale, del cinema. Siamo tutti grandi qui, affezionati sicuramente al cinema. Mi chiedo quanto le nuove generazioni saranno così legate allo schermo, ecco, alla sala cinematografica. E una notizia del genere appunto ci scombussola, perché ribalta l'ordine delle major, ridisegna un po' il futuro dell'intrattenimento. Questa fusione, pensate che è costata ben 82,7 miliardi di dollari. Cioè, la dice lunga. E mi pare che Paramount avesse lanciato adesso non ho scritto bene i dati, ma tipo sempre si parlava di 100 miliardi di dollari, cioè qualcosa del genere. Poi Netflix ha avuto la meglio e quindi Warner Bros. Ha ceduto all'offerta di Netflix, tant'è che su Wikipedia, che si aggiorna in una velocità ovviamente veramente è attualissima, già si riporta la notizia, già proprio in quella didascalia iniziale in cui si danno proprio le prime informazioni. Se tu vai su Warner Bros. Ti dice che la major che la possiede appunto è Netflix. Ecco, ovviamente il settore sta ancora cercando di capire quali saranno le conseguenze reali di questo accordo. A parte il mondo dei lavoratori, tutto diciamo dei lavoratori dello mondo dello spettacolo, del cinema hollywoodiano, ma non solo, perché avrà anche ricadute ovviamente a livello, si può dire quasi mondiale, insomma sicuramente di una certa parte di mondo, e che ricadute avrà sul mondo del lavoro, quindi di veramente tanti rumors. E per quanto riguarda invece i nostri affezionatissimi canali e le nostre serie, i nostri film, cioè ragazzi, Warner Bros., non so voi, ma io sono cresciuta con i Looney Tunes. E quindi non fanno mercoledì i Looney Tunes. Esatto, ci potremmo aspettare, sì. Che poi, cioè, in realtà sono gli unici aspetti che uno percepisce, al di là dei... Sì, Looney Tunes Crime. Passaggi di tanti soldi da gente che già li aveva, insomma. Sì, ma se approfondisci un attimo, in effetti ti rendi conto, io leggevo rapidamente, sono dinamiche che sono già, insomma, lontane nel tempo dal 2018, che poi in realtà la Warner Bros. Ha iniziato a scomporsi, ma anche da prima, insomma. Quindi questa fusione è forse l'ultimo, forse il più rumoroso, ecco, di queste ultime fusioni, scissioni, acquisizioni, eccetera. E però salta all'occhio, perché comunque il senso alla base è percepibile anche da noi poveri comuni mortali. Cioè Netflix è una piattaforma molto recente, Warner Bros. È un colosso del cinema, degli studi, insomma dei canali televisivi, eccetera. C'è un passaggio importante di cultura nel mondo dell'intrattenimento, poi questo è quindi a favore delle piattaforme di streaming, del cinema veloce, della visione, ecco, liquida, veloce e cose del genere. Tornando quindi al discorso di cosa succederà riguardo ai titoli a cui poi siamo magari affezionati, Netflix dominava già per numero di abbonati, numerosissimi abbonati, lo sappiamo, e adesso ecco avrà un catalogo ancora più imponente con l'arrivo quindi del patrimonio della Warner Bros. Che ha inglobato Netflix. Netflix, questa piattaforma, adesso integra titoli storici e serie di culto come The Big Bang Theory, I Soprano, Il Trono di Spade, Il Mago di Oz e anche l'intero universo DC, DC Comics. Sì, quindi io poi non so a livello visivo se succederà qualcosa, cioè noi adesso apriremo Netflix, non so chi lo ha, chi non lo ha, ahimè, forse puzza di monopolio. Sì, sì, esatto, è un po' come Google, non lo so, ste robe così. E quindi, come dicevi tu, maestro, mercoledì alla Casa di Carta, Bridgerton, Adolescence, Extraction, Stranger Things, esatto, possiamo aspettarci di tutto da questa fusione. E Cigni di Balacà c'è. E Cigni di Balacà si vuole segnalare. Dove si sente din. No, a ecco, vigilare. Vuole solo adesso arriva. Salutare. No, in realtà ecco, dei 82, quanto ho detto, miliardi, ne abbiamo già parlato, sono cifre astronomiche che noi possiamo solo così, insomma, un po' sognare, immaginare. Chiaramente quello che mo già dicevo poco fa è il rischio che ci sia questa accelerazione decisiva nel passaggio dalla sala allo streaming. E quindi possiamo solo augurare il meglio alle future generazioni. Diciamo che la piattaforma ha comunque garantito, cioè Netflix ha garantito che sosterrà le uscite cinematografiche dei titoli Warner previsti fino al 2029. Ma il suo orientamento 5 anni ce l'abbia, 4, esatto, no, ancora 3. Per tre, perché stiamo per entrare nel 2026, quindi godiamoci ancora la Warner Bros. Per i prossimi 3 anni, così come la conoscevamo. Ottimo, ottimo. E con questa nota un pochino noir, un pochino triste, ma insomma, e anche per rimanere in tema, nel segnalare che forse questo è stato anche solo un gigantesco errore accaduto nel mercato, gancio del settore finale. Speriamo non si perdano pezzi di pubblico troppo importante, ma adesso mandiamo un pezzo che ci ricorda come è importante mantenersi sempre in alto, puntare in alto, ascendere. Ce lo ricorda il nostro Daniele Silvestri con il classicissimo pezzo Salirò. Vai maestro. Wow. Salirò. Salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato, il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto. Distrutto, disperato ancora un po', prima o poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano, lontano. cominciare piano piano dalla base, tra le rose lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a molto. E salirò, salirò, salirò, salirò tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò. Radio Forte 100 Celle Avengers, mentre ringraziamo Grabri Grubri per la dotta disanima informa- di- vabbè niente, mi avventuro, ma perché lo faccio? Perché lo faccio? Perché sei sempre a parare lì poi, cioè non è che ci giri intorno, no? Devi dire quella parola e non no, è infatti vabbè, è il tema dell'errore tra è un tranello del diavolo. Pensavo che stavo, che dimenticavo prima alla fine della rubrica Campioni del Mondo di salutare Cobol Pongide, artista poliedrico nonché conduttore su Radio Forte di Boca Chica Cosmodron. Vai. Sì, fallo, fallo. Ah, sì, fallo. Aspettando. Vabbè, semplicemente per dire che oltre a essere una delle ultime trasmissioni insomma nel deserto di Radio Forte e anche per il mio potenziale acquirente per tutto il set di tastiere, tastierine, tastierose che un giorno metteremo tutte insieme, perché lui come sappiamo ha un set, o almeno aveva, magari ha cambiato tutto, ma c'ha un set elettronico di, fatto di giocattoli di bambini, quindi ci liberiamo casa. Comunque sempre ringraziamo e salutiamo ciao Cobol. Cobol, ciao wow. Cobol. Ciao. Ed è il momento della cultura musicale didattica per Devices. Facci pure. Esattamente, una cosa nata proprio per voi Devices che sì. Al contrario del normale studente apprezzate i compartimenti stagni, mentre si dice sempre che bisogna fare un discorso bello complesso fra una intermateria eccetera eccetera. Voi vi dico, vi do nozioni a cazzo di cane e sono sicuro che comunque ne farete tesoro come avete sempre fatto nella storia di questi 60 anni di 100 Celle Avengers. Quindi sto parlando di Suono Just Cares For You. Suono Just Cares For You. Ho chiamato la sigla a tradimento, scusa Betta. E niente, oggi andiamo ad affrontare, non da soli, con ospiti internazionali, un argomento tosto nel mondo del suonato, il terzinato. Ho fatto anche la rima mentre il Beautiful Mind Franci mi attira la mia attenzione sulla fascia sinistra con un selfie che mi manda totalmente fuori. Ma sì, così finita, è andata così a rubrica pazza, facciamo dalla foto tipo albero di Natale. Già era complicato quello che volevo dire, almeno per me. Vai, non ti sconcentrare. Allora, dicevo che si parlava del terzinato, o almeno così si diceva. Un argomento che interessa giovani, vecchi, ma anche giovani, capire. Augas. Ma lei non trova che questi tritoni siano frutto del demonio? Esci da questo corpo, Augas. No, Corrado, allora innanzitutto non Corrado. Sono tritoni, perché c'era in effetti il tritono del diavolo che è a distanza di quanti semitoni? Mi sembra che lo ricordate? Una distanza uguali. Vabbè, un accordaccio, una cosa una brutta. Quarta aumentata o una quinta diminuita. Ma parlavamo invece di terzine, quindi una questione ritmica. Corrado, scusate, eri fuori tema. E soprattutto ne parliamo nel suonato appunto di ieri e di oggi, perché noi intanto oggi cerchiamo di affrontare pezzi in un certo stile, cioè, capito? Cioè ho per la prima volta affrontato generi che sono un po' particolari, almeno cioè, è un eufemismo definirli così, ma soprattutto appunto che hanno bisogno, per capire come vengono eseguiti, della comprensione di questa ritmica cosiddetta terzinata, cioè della suddivisione di un qualcosa, di un'unità, una decina per tre. Lo dico così perché è una tragedia per le menti matematiche come Franci. No, ti prego, non lo svegliare. Stavo facendo il vago. Però insomma, io pensavo proprio a lui quando poi mi chiedeva quante battute mancano da qui a lì. Cioè, hanno detto voleva dei numeri precisi. C'è un degno erede. Sì, sì, esatto. Questo è il 4/4, normale. E invece questo... Il terzinato. Si parlava spesso di una città che ha aiutato negli anni a capire questa cosa, che è Napoli. Napoli. Parola, aiutami a dire, sdrucciola, giusto? Terzina. Di tre sillabe sicuramente, sdrucciola, poi ci correggerà la nonna o il nonno. Comunque che aiutava appunto con l'accento sulla prima il conteggio siffatto. Mentre... portarlo appunto sul suonato ci diciamo porta a spostare, è il segreto dello sciaffolato, dello zoppicante, del spostare i colpi dove non pensavi che fossero, invece ci sono, che è quello che fanno i jazzisti, insomma, in pratica, non fa capire che stanno a fare così tutti. E quindi ho detto così vinciamo facile, quindi ho proposto questo pezzo. E quindi per capire il terzinato io mo faccio dei test anche un po' sui device, anche se non vengono maltrattati. Sì, periodico, tre, periodico, ottavi, periodico, tre, ottavi, vai, sì. tre, ottavi. No, vabbè, no. Che gli hai fatto? Ottavi. Allora... mi dispiace, è stato prematuro comunque come discorso, però diciamo che questo è un po' quello che bisogna fare suonando, ma come dicevo è una cosa che mi ha affascinato perché interessa i giovani. Perché? Perché lo stesso concetto ritmico spostato totalmente, diciamo, avulso dal discorso che sto facendo adesso riferito ai pezzi jazz, lo troviamo nel cantato di oggi, quindi le solite, diciamo, proposte che vi faccio io di ascolto anche dell'oggi che mi imbarazzano, insomma, chi mi conosce. Comunque, per esempio, no. Questo cantato appassionato di Blanco è esattamente il trend di oggi. A livello compositivo ho trovato di più, anche se poi, cioè, volendo prendere un esempio di mezzo, cioè non è che mi muore di Anna, però la cosa che mi affascina è che oggi un modo di scrivere i pezzi, soprattutto sanremese, ma anche non sanremese, che porta questa cifra distintiva del terzinato cantando. E poi mo, quindi mi gioco la carta geolier che ha fatto questo pezzo bellissimo che va adesso. Di cui, vabbè, ritornello va tutto con questo autotune fastidioso. Va benissimo con l'autotune, tutto. Sfogato Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. E comunque voleva pure essere il testo. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. E quindi niente, riportavo questo uso che comunque se poi apprendi, cioè te impari a contare in quella maniera, te lo puoi giocare in varie maniere. Come hai osato non citare il mio San Giovanni? E infatti volevo metterci pure San Giovanni. In realtà è un trend veramente, sì, quindi sì. La moda dei giovani è un trend, sì, cioè trasversale nel tempo, insomma, no? Cioè, ma non lo so se andiamo indietro troviamo un Beethoven terzinato, però voglio dire, beh, sì vabbè, cioè nel senso, sì. È una notazione un po' Paganini pure stronza, perché comunque non è prevista, cioè c'è solo un simbolo all'inizio del pentagramma che ti dice che gli ottavi non sono ottavi, per quello i device si impazziscono, esatto, quando glielo ecco dici. Perché sapete quanto vale un ottavo terzinato? Mamma mia, 3,3 periodico, 3,3 periodico, 3,3 periodico. L'importante è suonare bene, vale un dodicesimo grande, non un ottavo, e questo ci spiazza. Se lo prende questo ragazzo al laboratorio. E quindi chiudiamo cercando di rendere, cioè mettere in pratica un po' quello che abbiamo appreso in questa lezione bellissima. E in questo caso diamo anche spazio a una tematica seria, perché noi non manchiamo, Corrado, di affrontare anche tematiche aujourd'hui serie, come si parla sempre dell'incomunicabilità in famiglia. Io oggi vi voglio parlare dell'intoccabilità in famiglia, ma meglio di me lo possono fare gli audio. Ti prende subito papà, eh? Papino fumatino, papino fumatino, papino fumatino. Non toccare il mio bambino. Papino fumatino, papino fumatino, papino fumatino. Non toccare il mio bambino. Papino fumatino, papino fumatino. Oh, mo una bella biretta. Papà. Amore, eccolo papà, eh. Papino berutino, papino berutino, papino berutino. Non toccare il mio bambino. Papino berutino, papino berutino, papino berutino. Mamma, è solo un bicchierino. Papino berutino, papino berutino. Mamma che sudata oggi. Papà. Cosa c'è di più bello che l'abbraccio del tuo... Oh, oh. Bello terzinato. Papino sudatino, don't touch my baby, sweaty daddy. Don't touch my baby, sweaty daddy. Oh, ma oggi è 18, c'è sta il vaccino. Prendi, prendi, prendi il mio bambino, portalo a fare il vaccino. Ah, quindi mo vado. Ah, allora mo. Papino, tu che sei il mio beniamino, portalo a fare il vaccino. Vabbè, ma fammi almeno lavare le mani. Papino fumatino, sudatino, bevutino. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Sì, c'è un applauso abbastanza grande. È bellissimo. Oltre... No, splendido. Io non ne sapevo nulla. Continuo a chiedere se state volte... bene, ragazzi. Ma io però... allora voglio dire, ma quante volte ti ho detto che i panni sporchi si lavano? Il radio. Il radio, esatto. E con questo fumatino. Ho voluto comunque anche rendere, anche se non si capiva forse, volevo rendere omaggio, no. Al terzinato? No, era un doppio omaggio, cioè nel senso, uno era ai Camillas, ai quali mi sono ispirato in parte lo stile. Sì. E quindi è Mirko Bertuccioli, che non c'è più, dei Camillas, che mi ha fatto conoscere... Giulie, l'altro omaggio, cioè o meglio, l'altro, come dire, auspicio di questa puntata. Nel momento in cui io metto soltanto così. Noi non sapevamo la sigla di sottofondo anche, volendo. E speriamo che torni. Quindi la rubrica che tutti l'astroloca. Che tutti aspettano. Ma io cerco di capire cosa deve succedere nel frattempo. Salutiamo Julie, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano di MD e non solo. E succede anche Julie è tornata in MD, diciamo, nella nostra infatti, scuola di musica. Applauso. Pochi giorni fa, infatti, le raccontai che te ancora stai in fissa col pezzo dei Camillas mi che le aveva proposto. Esatto. Si chiama Mi dai fastidio. Sì, lei non lo sapeva, quindi glielo ho detto, si è messa a ride. È vero. E quindi è il momento di nonno. Nonno. Tutto si fa più, diciamo, artistico? Artistico, alto volevo dire. Artificistico. E andiamo, è brava, andiamo a cercare subito. La vuoi dire qualcosa? Di artifici. Posso Gabby. Solo introdurre così, insomma, non degnamente quello di cui adesso ci parlerà nonno Angelo con la sua nuova puntata di Artifici, che è in tema natalizio. Ecco, posso dire questo: di errori, forse, di Natale sì, si parla, quello sicuramente, però tutto interpretato, o meglio reinterpretato, da lui. Prego, maestro, sigla di Artifici. Grazie Angelo, grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Buon pomeriggio di nuovo, cari amici, cari amiche, cari amici. Allora, anche questa volta sono in compagnia di un espertissimo assistente, mio nipote Filippo, che mi aiuterà stavolta. Beh, ecco, l'avete sentito in diretta, bello di nonno. Nonno qua, nonno fa una cosa, adesso alla radio. Siamo in pieno clima natalizio o natalesco, come piace dire a me, perché da laico impenitente mi piace fare queste cose senza senso. Natalesco, per cambiare. E il clima, certo, di questi anni non è quello della mia infanzia o adolescenza, ma cambia sempre, cambia da quando è stato istituito questa festa cristiano-cattolica, il che risale al IV secolo, quindi non è da sempre. Solo nel IV secolo si è stabilito che Gesù sarebbe nato in questi tempi e quindi è stata istituita la festa. In realtà alla base c'è l'ennesimo tentativo, non tentativo, l'ennesima volontà da parte del cristianesimo, della Chiesa, di sopprimere tutte le festività legate ai culti precedenti. Il più diffuso era quello di Mitra, il culto mitraico. Roma è piena di mitrei, vi invito ad andarne a vedere qualcuno perché sono bellissimi. Ovviamente anche Mitra era nato il 25 dicembre, così come Ercole, Dionisio e tantissimi altri personaggi storici o non storici. E quindi il Natale ha soppiantato le feste precedenti, che erano legate tutte al fenomeno del solstizio d'inverno. Sappiamo che 22, 23, 24 dicembre il sole, la luce del sole raggiunge la sua minima presenza con prevalenza del buio. Dopodiché ricomincia il processo inverso, cioè aumenta il periodo di luce, di sole, e man mano diminuisce quello del buio. Ecco perché tanti eroi leggendari o no, o meno, la loro nascita si fa coincidere con Natale. Il Natale, quindi grande festa ormai popolare, è stata interpretata ovviamente nell'arte di tutte le manifestazioni, di tutte le forme. Nell'arte pittorica essenzialmente è sempre stato rappresentato il Natale ambientato ai tempi in cui viveva l'artista. Quindi nel Medioevo vestivano come si vestiva all'epoca, nel Rinascimento, eccetera. Tra i più belli, insomma, sei sicuramente le due Adorazioni dei Magi di Botticelli, e poi quello che a me più mi piace è una Natività di Ugo van der Goes, non so se l'ho pronunciato bene, un pittore fiammingo, che nel 1477 ha realizzato il trittico Portinari. Andate poi a vederlo e guardate e osservate una cosa simpatica. L'ambientazione è quella classica, classica nel senso che di solito la Natività si rappresentava avendo allo sfondo degli edifici diruti o distrutti o mezzo distrutti, e simboleggiava questo sfondo il paganesimo che andava perdendosi e veniva soppiantato dalla nuova era, dalla nuova religione, quindi la nascita di Gesù. Quindi sullo sfondo il paganesimo che decade e in primo piano il cristianesimo che insorge, comincia e poi è destinato a durare fino a mo ancora oltre. Ecco, in questo trittico Portinari, con la Madonna bella grande come si usava fare, gli angeli piccoli piccoli, perché il personaggio più importante aveva dimensioni maggiori, di fronte a questa Madonna ci sono tre pastori che sembrano essere usciti dal pennello di Caravaggio. Cioè sono tre personaggi di un realismo eccezionale per i tempi. E insomma, ognuno l'ha interpretato il Natale come meglio ha ritenuto. E da questo prendo spunto per raccontarvi il modo in cui io ho interpretato il Natale, in maniera forse un po' dissacrante, ma insomma, questo mi è venuto. E vi leggo due brevi poesie. Una è Betlemme e dice così. Devo mettere gli occhiali, scusate. Filippo mi aiuta, grazie. Tenevo i pugni chiusi, stretti e gli occhi chiusi. Gridavo a tutto il mondo della violenza assurda che subivo. Vivevo il paradiso, il bello tutto. Vivevo e all'improvviso sono morto. Tutti dicono invece che ero nato. Ora ho imparato a nascere e morire. La culla, cenotafio del futuro, dell'oggi, del presente, del mio sempre. Vergine Madre, Vergine Maria, tu porti molte cose nel tuo sguardo, la terra tua, il cielo, le parole, i segni di un pudore riservato, tenuto ben protetto, clandestino, ma tutto rivelato sul tuo viso, nel tuo bicchiere colmo del mio vino. Porti la croce con i chiodi aguzzi, porti la coppa di resurrezione, porti, ma solo a chi ti sa guardare, ai falegnami, ai vecchi carpentieri, le donne col grembiule da cucina, le mamme austere, bianche di farina, gli schizzi del ragù domenicale, come un presepio tutto da inventare, col muschio colto al sole del mattino e con la greppia fumigante e piena, nell'aria le campane della festa di tutti i giorni per il mio Natale. Questa, che ovviamente fa riferimento a una nascita, che sì, certo, la nascita è una cosa bella, si entra nel mondo, quello all'aperto, e si lascia il mondo al chiuso nel quale si era stati prima. E per un bambino, per il feto, quello è un momento di felicità, intendendo per felicità lo stato in cui non si desidera se non ciò che si ha. E tutti i bambini, quando stanno nel grembo materno, non desiderano altro. Poi si nasce e cominciano i problemi. L'altro è Natale eretico, l'altra mia poesia, e dice così. Ed ora partoriscimi, Maria, fammi tuo Signore, empiti di me e dammi il cuore. Il mio te l'ho dato nel farti madre e vergine d'amore. Ammantati di tutto il tuo pudore, sciogli i capelli sul tuo grembo sacro, attinto dall'ardore più devoto, disciolto tra le labbra ed il mio vino. Fammi padrone del tuo orto, donna, orto concluso, insigne devozione, fedele a me dal che fosti annunciata. Spaccati il cuore e lavami il costato, che durerà un soffio la mia vita. La tua è il fiato greve del creato. Bene, io ho concluso. Grazie per l'ospitalità. Buone feste di fine anno a tutti e buona festa del Dies Solis Invicti, il sole che rimane vittorioso, che torna vittorioso, perché dopo appunto tre giorni di stagnazione con il buio più lungo della luce, ritorna il sole a prevalere sulle tenebre. Auguri a tutti! Sometimes I feel so lonely. My come down, I'm scared to face. I've pierced my skin again, Lord. No. My soul belongs to the dealer. He keeps my mind as well. I play the part of the leecher. No. Radio Forte 100 Cell Rangers, quando momenti di panico la fa da padrone. No, mi dovevo presentare da sola, ma stavo leggendo, non era niente di tuo, sì. E, stiamo rientrando qua con una rubrica che è stata ripresa anche in questi giorni in cui abbiamo rifatto varie puntate, cioè All'Epica, una rubrica che a quanto pare ha sempre nuovo fermento sotto. E quindi non mi resta altro che dire, maestri. No, non lo dire. Cioè, nel senso, parla ancora di com'è All'Epica. Di cose. Parleremo a proposito di errori. Di una situazione che secondo me è uno dei peggiori incubi che può succedere a un musicista, soprattutto un musicista classico. E quindi quando siete pronti io potrei... Ora lo puoi dire. Usa avverbi. Potrei pedissequamente... Sono riempitivi. Dire sigla. Gadda. È una nuova diavoleria moderna. All'epoca Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Ed eccoci qui. Allora, inizio subito dicendo il retroscena, ovvero io questo aneddoto che vi sto per raccontare l'ho visualizzato in video, perché di questa di questo aneddoto appunto esiste una registrazione video, visto che è stata inserita in un documentario di cui però non ho trovato il nome. Sta su Gizzi, la cosa video? È un documentario danese, vabbè, comunque, c'era soltanto un piccolo estratto e me la sono presa veramente molto a cuore. Quindi, inizio subito. Immaginate di vivere il vostro peggiore incubo della vostra vita da musicista classico. Con un po' di contesto iniziale, vi inizio a dire che il musicista classico possiamo dire che lega la sua performance a doppio filo con la lettura del brano e la conduzione del direttore d'orchestra. Quindi, semplificando di molto, ma possiamo dire che il suonare a memoria non è tra le skills che un musicista classico impara ad usare per le proprie performance. Maestro Armando, è così? Eh sì, proprio lui. Ci potrà confermare, aspettiamolo qui. Allora. Ecco, in questo contesto si collocano tutti i grandi musicisti classici ed oggi parleremo di Maria João Pires. Se parliamo di genio ci viene subito in mente Mozart e proprio come lui Maria iniziò a suonare da piccolissima proponendo pubblicamente a 5 e 7 anni i concerti per pianoforte proprio di Mozart, di cui sarà sempre interprete eccellente, insieme a quella che è stata definita la migliore interpretazione mai fatta dei notturni di Chopin, che tutti bene o male abbiamo nella testa o comunque abbiamo sicuramente ascoltato. Proprio la sua grande conoscenza di Mozart la salvò dalla catastrofe, quella vera, quella che nella testa di tutti i musicisti classici o meno è l'avvicinarsi della vera disfatta, ovvero non mi ricordo il pezzo. Per un musicista che non ha una formazione classica, questo argomento scottante si può comunque risolvere con poco. Vi porto un aneddoto personale. Quest'anno, ad esempio, al saggio non ricordavo il brano con cui dovevo iniziare io, da sola, l'intero concerto dei quadri, ma mi bastò per fortuna girarmi verso il nostro batterista Alessandro, sempre nei nostri cuori, che mi vide nel panico. Lui mi cantò l'inizio della canzone e tutto andò bene perché mi ricordai poi come dovevo proseguire. Perché noi siamo abituati a suonare a memoria o comunque con delle parti e non degli spartiti veri e propri davanti che ci portano nota per nota quello che dobbiamo suonare. Per quanto riguarda un pianista classico, invece, questo non mi ricordo il pezzo non è importante quanto ho portato il pezzo sbagliato. Allora immaginate la scena. Vi chiedono di sostituire il pianista per un concerto di Mozart. Avete a disposizione una sola prova generale e il concerto. Poco male, siete tra le più grandi conoscitrici di Mozart, lo si studia a casa, ci si allena ovviamente sul perfezionare ogni passaggio, ossessivamente, ripetutamente, ma poi tutto in scena andrà bene. Così vi presentate alla prova generale e scoprite che non sarà una prova normale, ma sarà presente la TV per un documentario di cui sopra, sulla vostra orchestra e anche il pubblico sarà lì. Non è una prova, è una messa alla prova, ma ancora una volta poco male, suonate Mozart da quando avete 5 anni, non è di certo un problema per voi. E così, vi sedete al piano, sistemate il vostro spartito, lo aprite e il direttore d'orchestra Riccardo Scellì fa partire il brano e inizia a suonare il concerto per pianoforte numero 23. Aspetta, io ho visto il 20, magari si stanno sbagliando loro, io qui davanti ho il 20. Che sta succedendo? Ho sbagliato concerto? Mi hanno comunicato di sostituire per il concerto sbagliato? Quello che abbiamo sentito all'inizio, diciamo come sottofondo, era proprio il concerto per pianoforte numero 20, mentre questo è il concerto per pianoforte numero 23. Ecco, a questo punto torniamo a sentire la sensazione di essere un musicista classico, noi ascoltatori. Che allena molto meno la memoria, tanto che Maria, infatti, in seguito disse che a quel punto era al suo limite, perché la sua memoria, si conosce profondamente, la sua memoria finiva dopo 8-10 mesi dalla performance del brano, insomma, del concerto che doveva suonare. E a questo punto stia letteralmente impazzendo dalla sorpresa, dall'insicurezza e dalla pressione. Serve l'intervento di qualcuno che riesca a gestire anche artisti di questo calibro ed è qui che interviene il direttore d'orchestra che tutti vorremmo ci gestisse la vita, dal preparare un esame. Giorgino. Esatto. Dal preparare un esame a un colloquio di lavoro a lasciare il tuo ragazzo se non sai come fare. Ecco, Ci fu questo momento di comunicazione meraviglioso fra voi due, mentre il concerto andava e il direttore dirigeva, in cui la pianista, disperata, con le mani in faccia, spiegò che il concerto che aveva visto era un altro. E a questo punto il maestro, senza perdere l'ottimismo, sapendo di avere a che fare con una grande, si appellò alla sua memoria muscolare. Le disse che il concerto l'aveva suonato alla perfezione per tutta la stagione precedente e che era convinto che lo avrebbe ricordato e suonato tutto. Più di 30 minuti di concerto per piano e orchestra senza leggere una singola nota. Smarmella. Mamma mia. Ma faccia a cazzo di cane, maestro. Perché a noi la qualità a rotter. Questo connubio di due professionisti grandiosi che hanno saputo gestire alla perfezione la parte emotiva e umana della situazione ci dovrebbe colpire tutti, perché siamo tutti abituati a credere che suonare in certi modi e in certi contesti ci renda dei piccoli robot che vanno a macchinetta, che se gli levi lo spartito davanti danno di matto, e che la musica la vivono essenzialmente in maniera diversa da chi la vive, diciamo, come noi, da essere umano, nel bene e nel male. E invece, dopo un momento di raccoglimento, la disperazione negli occhi della pianista si fece meno palpabile, la mano si sollevò sul piano, un paio di respiri e non sbagliò un colpo. Nice! Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E volge al termine questo puntatone in diretta di Centocelle Avengers su Radio Forte. Io pure comunque sono sempre stato affascinato dal fenomeno del musicista cyborg capace di fare qualsiasi cosa, ma che se gli toglio il spartito è smarrito, perché vabbè, mi sento ovviamente il contrario. Sì, perché è il contrario. No, vabbè, nel senso, poi c'è chi ci fa più o meno affidamento proprio sulla memoria soltanto, però in effetti poi i sinfonici sicuramente, ma anche molti musicisti di musica leggera che dicevano le parti così al volo, da Maria Di Filippi, cioè fanno conto su una lettura veloce non da pochi, e quindi bello, bello l'errore, bello, mi è piaciuto, e quindi voglio al termine questa puntatona che trovate anche in podcast. Domani c'è il Natale segreto, lo ripetiamo e ci vediamo tutti. Non so se possiamo fare stop al televoto, perché comunque vabbè, avranno tutti grattato la palla, credo. Esatto. E quindi ormai il regalo l'avete fatto, oppure siete fuori? Siete fuori, come qualcuno che comunque sarà lì per giudicarci. Come nel baseball. qualcuno a caso? Ricordatevi di non esibire. Basta, questa già ho detta. Possiamo ricordare invece di ancora una volta di venire stasera a Fascino, la serata che sarà che ci ospita qui al Forte Prenestino. È partita la sigla, perché parte puntuale un orologio svizzero come noi, e quindi noi ci rivediamo sicuramente tra due settimane, che è Natale praticamente, se non sbaglio. Vabbè, improbabile. Comunque vi voglio bene. Ciao. Alla prossima. Ciao.